Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola. Un altro appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un gruppo che si riunisce a sorpresa dopo tanti anni. Nascono negli anni 70 a Milano dai primi gruppi che suonavano negli ambienti del liceo Berché. Nel 1978 incidono il loro primo 33 giri dal titolo Punk. Nel 1979 il singolo Indigestione Disco con produzione di Shel Shapiro. L'anno successivo partecipano al Festival di Sanremo con il brano Contessa. Segue l'album Vivo da Re. Arrivano poi i problemi tra l'etichetta, il produttore, la band e il gruppo si scioglie. Il frontman inizia una fortunatissima carriera solista. La band produce ancora due album, 900 nel 1982 e Desaparecida nel 1998. Tornano insieme in una serata del Sanremo 2010 e in un live del 2014. Nel 2016 invitano la stampa al liceo Berché per un annuncio a sorpresa. A marzo arriverà Noblesse Oblige, il nuovo album di Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, cioè i Decibel. Degli U diceva: ho fatto musica per non farmi più chiedere perché avevo il naso così grosso. E un pochino, noi non avevamo nasi grossi, ma avevamo, come tutti gli adolescenti, quella fatica a collocarci nel mondo, e la musica ci aiutava in questo. Posso fare un'altra citazione, visto che ho citato Pete Townshend? Citare David Byrne dei Talking Heads, che dice: fare musica racchiude in sé la propria ricompensa. Ed è quello che pensavamo noi allora, penso che lo condividiamo ancora adesso, questo pensiero. Pensavate al successo? Lo immaginavate il successo? Beh, il successo lo si spera sempre, lo si ha comunque, perché i nostri beniamini sono quelli che hanno avuto successo. Per me, per esempio, erano i Beatles, per cui chiaramente nell'idea di fare della musica c'era comunque anche la visione di quello di poter comunicare le proprie emozioni a più persone possibili. E quindi sì, in questi termini sì, ma non appunto, come si diceva prima, in termini economici, per esempio, che la cosa del tutto non ci interessava in quel periodo. Enrico, racconta un po': qui liceo Berché cominciate a suonare a 15 anni e poi? Ma poi arriva il punk, arriva una svolta epocale, perché prima del punk, in qualche modo, a te piacevano dei musicisti che sembravano inarrivabili, perché dicevi: ma io, anche se suono il piano, non suonerò mai come Emerson, non suonerò mai la chitarra come Steve Howe degli Yes, che ha 10 chitarre di cui 3 a triplo manico. E c'era questa sensazione di frustrazione da parte di molti ragazzi per confrontarsi con degli epigoni assolutamente inarrivabili strumentalmente. E poi invece arriva il punk, arrivano dei ragazzi che suonano peggio di te, però hanno rabbia, hanno comunicativa, eccetera. E quindi in qualche modo io fondo una band che si chiama Decibel, che fa un primo album molto duro, che vende poco ma che diventa un punto di riferimento per l'area rock. Dopodiché invece rincontro Fulvio e Silvio, gli amici di una vita, e diamo vita a un progetto diverso, più articolato, più complesso, che parte da un singolo e poi arriva all'album Vivo da Re, con dentro Contessa, quindi arriva Kurt Weill, arriva il cabaret tedesco, arrivano gli Sparks, arriva la New Wave, arriva tanta carne al fuoco, anche perché lì insomma eravamo come minimo in 3 a mettere carne sul fuoco, e quindi insomma arriva un album particolare come l'album Vivo da Re. Arriva persino Sanremo. Voglio chiedervi cosa pensate quando rivedete quelle immagini, perché la TV le rimanda a ciclo continuo. Ma guarda, io avevo la camicia bianca e i capelli neri. Adesso, come vedi, ho la camicia nera senza nessuna allusione politica e il capello è bianco. Quello che c'è in mezzo è rimasto lo stesso. Tu? Dopo una risposta come cosa di Silvio è difficile trovare un'altra battuta. Comunque il ricordo è sempre molto bello, l'emozione era stata intensa, e quello che è una soddisfazione è vedere che quelle immagini appunto continuano a essere rimandate, quindi evidentemente facevamo qualche cosa che comunque ha avuto un significato. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Noi eravamo veramente, se tu guardi chi c'era in quel festival di Sanremo dell'80, noi eravamo veramente provenienti da un altro pianeta. Perché i gruppi erano melodici, erano i collage, erano la bottega dell'arte, persone rispettabilissime umanamente, artisticamente, ma che facevano una musica completamente diversa dalla nostra. E evidentemente noi abbiamo lasciato veramente un segno, perché io poi ho fatto una trentina di album, ma comunque non ho mai vissuto una giornata intera senza che una persona non mi scrivesse o non mi chiedesse qualcosa di quel passaggio, di quei decibel, di quella contessa a Sanremo. La storia della musica pop, rock, punk, tutta è fatta di gruppi che si dividono odiandosi aspramente, tirandosi oggetti, odiandosi per tutta la vita. No, io vi vedo qua tutte e tre sorridenti. Perché in realtà noi siamo stati travolti dagli eventi. Cioè, intanto abbiamo avuto grosso successo con un album che oggi viene considerato come dire punto di riferimento della new wave italiana, però allora a noi, noi chiamavamo Lou Reed e Iggy Pop, ci trovavamo di fronte alle ragazzine che ci tiravano gli orsacchiotti e i peluche, quindi avevamo, intanto eravamo giovanissimi, eppure approfittando biecamente di questo, come dire, finalmente ascendente presso il pubblico femminile, però avevamo un tipo di successo assolutamente diverso da quello che noi pensavamo fosse il successo. Era quello di Lou Reed per noi il successo, non negli orsacchiotti rosa. In più eravamo delle galline dalle uova d'oro, quindi attorno a noi si è scatenata una guerra senza esclusione di colpi tra manager, impresari, produttori, cause, insomma, quindi per riassumere brevemente, non abbiamo retto a quel tipo di pressione, quindi non c'è stato nulla tra di noi, c'è stato tra ognuno e se stesso e quello che ci stava capitando. Sono curiosa di sapere cosa avete fatto voi in questi anni. Per mia parte mi sono dedicato soprattutto alla musica d'ambiente, ambient music, quindi tutt'altro rispetto al new wave, al rock. E l'ho fatta realizzando musiche per gallerie d'arte, nel dopo Rossi, sì. E, wellness resort, musiche molto rilassanti. Chiaramente nel momento in cui con Enrico e con Fulvio ci siamo ritrovati a parlare di riformare i decibel, di tornare a quelli che sono i nostri punti di riferimento, il richiamo della foresta lì è troppo forte, quindi non si può dire di no. Anche tu richiamo della foresta? Assolutamente sì, richiamo della foresta, che è arrivato dopo un periodo invece in cui mi sono dedicato più a degli aspetti, diciamo, quasi che correrono un po' la musica con la scienza, perché la mia formazione è anche di tipo scientifico e quindi ho voluto approfondire cos'era la musicoterapia, la psicoacustica, e questo è stato invece un po' il mio percorso. Ho già finito la mia volca ghiacciata e brindo a lei che non è più ritornata. Mi ci vorrebbe qualche cosa da fare. Non ho più niente in casa da sfasciare. L'unica cosa che mi resta adesso è vomitare piano dentro al gesso. Essere contento di sentirsi male e immaginarsi al proprio funerale. Raccontate adesso invece cosa succederà. È bello adesso, una bella avventura. A me già solo sulla carta piace da morire. Succederà che finiamo di fare il disco, che esce il 10 marzo in due versioni. Una è il CD normale, diciamo, come tutti, ma soprattutto c'è una tiratura limitata a 1000 copie. Pubblichiamo il CD in doppio vinile, Poi ci sono tutti i vinili dei Decibel, perché dopo tutti questi anni i vari contenziosi si sono risolti e quindi possiamo ripubblicare in vinile tutto. Poi pubblichiamo il primo manifesto del primo concerto dei Decibel, insomma alcune rarità, un book fotografico, tutte queste cose in 1000 copie a tiratura limitata. Album quindi inediti? Album inediti, abbiamo rinciso con Tessa 3 canzoni, una che si chiama Pernò e Vivo da Re, soprattutto pensando alla versione inglese, perché Vivo da Re nacque quando avevamo 17 anni, si chiamava Living Home ed era una canzone di ragazzini del liceo, quindi peraltro con un testo in inglese anche forse non perfetto dal punto di vista sintattico. Enrico, manca solo una cosa a questo punto, una puntata del Falco e il Gabbiano sui Decibel, la facciamo? Guarda, la faccio io, la facciamo? Potrebbe essere, ma sai, la mia... come dire, c'è un conflitto di interessi. C'è un conflitto di interessi, però devo dire, insomma, l'Italia non è un paese che pone il conflitto di interessi al centro dell'agenda, no? Per cui Stati Uniti, direi neanche gli Stati Uniti, quindi... e neanche il mondo, quindi perché no? Allora, per l'anniversario la facciamo. Quando esce il disco la facciamo. Ok, facciamo la puntata assieme sui Decibel. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena, insieme a noi i Decibel. Ancora un saluto da Marta Cagnola.